24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Paolo Piacenza, questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In evidenza il caso Grecia, l'attesa riunione straordinaria dell'Eurogruppo a Bruxelles, in primo piano anche il referendum italiano e gli effetti sui titoli energetici. Punteremo poi l'attenzione sul Mediterraneo, le elezioni in Turchia, le violenze in Siria e il riconoscimento dei ribelli libici da parte della Germania. Ma parleremo anche di un'orchestra italiana che collaborerà con il cantante inglese Sting e del protagonista europeo, un tedesco, della vittoria di Dallas nella finale NBA. Partiamo dunque dalla Grecia, dove crolla il consenso del governo Papandreou. I socialisti del PASOK, che si apprestano ad attuare un'ulteriore manovra di austerity da 28 miliardi, sono scesi al 27% nei sondaggi e proprio il caso Grecia è al centro delle preoccupazioni dei paesi europei che si riuniscono per un Eurogruppo straordinario. Il servizio. Sarà una settimana ad altissima tensione quella che si apre oggi a Bruxelles. Dopo la pausa della festività di Pentecoste, un Eurogruppo straordinario si troverà nel menù il delicato dossier greco. Il discrimine si gioca tutto sul coinvolgimento dei privati in questa seconda fase di salvataggio, che rischia di rivelarsi ancora più complicata della prima. La stima del denaro necessario a salvare Atene si aggira sugli 80-90 miliardi di euro dopo i 110 già stanziati allo scoppio della crisi. La Germania è in prima linea nel chiedere un coinvolgimento dei privati, in particolare modo le banche, mediante un allungamento della durata dei titoli di Stato. Il ministro delle finanze belga Didier Reinders ha quantificato in 25 miliardi questo coinvolgimento, un'eventualità che viene apertamente osteggiata dalla Banca Centrale Europea, che fiuta il pericolo. La Commissione tenta una mediazione. Il titolare degli affari economici Olli Rehn non esclude il coinvolgimento degli investitori privati, a patto però che ciò avvenga su base volontaria. La questione si gioca soprattutto su termini tecnici, reprofiling, rollover, per evitare il ben più tragico vocabolo default. Se così infatti i mercati finissero per percepire, la situazione greca sarebbe per l'eurozona tutta un vero disastro. È anche per questo che i prossimi 10 giorni, da qui al Consiglio europeo di fine mese, saranno decisivi. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Mercati borsistici in leggera crescita in Europa, con un'eccezione. Londra chiude a più 0,13%, Francoforte a più 0,22%, Parigi a più 0,07%. L'eccezione è Milano, dove il FTSE All Share chiude a meno 0,17%, il FTSE MIB a meno 0,18%. Sulla piazza milanese in evidenza l'andamento dei titoli dei produttori di energia da fonti rinnovabili, spinti dall'effetto referendum. Nel listino principale cresce dell'1,41% e nel Green Power. Sul listino generale All Share brillano gli energetici CareSelf, RG Capital e KR Energy. In Italia dunque il referendum è valido grazie al 57% di affluenza, percentuali altissime per il sì in tutti e quattro i quesiti su acqua, pubblica, nucleare e legittimo impedimento del Premier. Le percentuali dei voti a favore oscillano tra il 94,6% e il 96,1%. Sull'esito del referendum italiano la Francia esprime rispetto per la volontà popolare. Lo ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri francese, Bernard Valero. Dal teatro mediterraneo intanto continuano ad arrivare notizie che coinvolgono direttamente anche l'Europa. Cominciamo con la Turchia, dove il partito AKP del premier Recep Erdogan ha ottenuto il 49,83% dei consensi e 326 seggi alle elezioni parlamentari che si sono svolte domenica. Da questi risultati dovrebbe scaturire un nuovo impulso ai negoziati di adesione all'Unione Europea. E quanto auspicano in una dichiarazione congiunta il presidente della Commissione Europea Barroso e il presidente del Consiglio dell'Unione Europea Herman Van Rompuy. Il commento sulle elezioni della Turchia di Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Questa è stata una larga vittoria, non un trionfo però per Erdogan, perché il primo ministro puntava eventualmente ad aggiudicarsi una maggioranza tale per avere 2/3 dei seggi che gli avrebbero consentito di cambiare la Costituzione senza dover trattare con l'opposizione del Partito Repubblicano. Bene. La vittoria è stata larga, ma non un trionfo, come si diceva. Questa vittoria in realtà consolida il potere dell'AKP, del partito di Erdogan, lo avvicina all'Europa, ma non si sa perché in realtà gli europei hanno sempre rinviato questo accesso della Turchia all'Unione Europea. In realtà la Turchia sta seguendo una strada propria che forse tra sviluppo economico e politica estera sempre più orientata verso il Medio Oriente sembra allontanarsi da Bruxelles più che avvicinarsi. La repressione in Siria provoca la reazione dell'Europa. Gran Bretagna, Italia, Francia, Germania e Portogallo hanno chiesto all'ONU una risoluzione di condanna dopo i fatti di Girs al-Sugur. Dopo il massacro di Jisal Suguri, i dissidenti siriani chiedono, entro 6 mesi, una conferenza sotto la supervisione internazionale per scrivere una nuova costituzione. Dopo giorni di bombardamento, la città di Jisal Suguri è di nuovo nelle mani dell'esercito. La TV di Stato sostiene che l'esercito sia entrato nella città per cacciare bande armate e abbia ucciso soltanto 2 insorti. Ma testimoni riferiscono alla BBC di case in fiamme e decine di vittime. Le versioni sono totalmente discordanti anche sui 120 militari uccisi. Secondo Damasco li hanno uccisi i ribelli. Secondo l'agente di Jisal Suguri, i 120 soldati sono stati uccisi dai loro stessi commilitoni per essersi rifiutati di sparare sui civili. Nella città oggi non c'è più nessuno. Gli abitanti sono fuggiti in massa verso la Turchia, che ha mantenuto aperte le frontiere. I profughi oltre il confine sarebbero ormai 10.000. Gran Bretagna, Italia, Francia, Germania e Portogallo hanno chiesto che il Consiglio di Sicurezza dell'ONU prenda una posizione chiara sulla Siria, con una risoluzione che condanni la repressione. Contrarie Russia e Cina. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora andiamo in Libia. La Germania ha riconosciuto il Consiglio Nazionale Transitorio dei Ribelli come rappresentante legittimo del popolo libico. Lo ha detto il ministro degli esteri tedesco Guido Westerwelle, che si è recato a Bengasi, roccaforte degli insorti. Condividiamo lo stesso obiettivo, ha detto il ministro nel corso di una conferenza stampa, una Libia senza Gheddafi. E invece un russo, l'uomo che ha riportato sul video il colonnello. Fuori forse piovevano le bombe della NATO, dentro invece c'erano il colonnello Gheddafi, con la consueta tenuta da beduino e gli occhiali neri, e Kirsan Ilyumjinov, presidente della Federazione Internazionale degli Scacchi. Tra loro una scacchiera e un gioco avviato, ma forse solo messo in scena. Parlano, pare, del torneo di scacchi in programma Tripoli in ottobre. Un torneo che si farà, sostiene Ilyumjinov, perché in Libia le acque si calmeranno. L'ex presidente della Kalmukia, però, è noto per la sua caparbietà nel sostenere tesi difficili. Dani, ad esempio, racconta di aver incontrato degli extraterrestri in scafandri gialli. Di questo incontro con Gheddafi, quindi, la parte più credibile è probabilmente quella relativa al rifiuto del Rais di lasciare la Libia. L'Alleanza Atlantica, intanto, ha annunciato di aver intensificato le operazioni militari sulla costa nord-ovest per coprire la fuga dei civili verso la Tunisia. Un confine dal quale, riferisce la BBC, di contrabbando filtrano armi per i ribelli sovvenzionate dalle comunità libiche all'estero. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Musicisti italiani e un grande artista inglese. Loro sono l'Ensemble Symphony Orchestra, 54 elementi, un'orchestra sinfonica con l'aggiunta di una nutrita sezione ritmica, di un pianoforte, di varie sezioni di sassofoni. Quest'anno hanno un programma di concerti molto particolare, accompagneranno i big della musica italiana, ma anche Sting. Il direttore, il maestro Giacomo Loprieno, al microfono di Marta Cagnola. Difficoltà dove sta? Nella parte ritmica e soprattutto esecutivamente. Dobbiamo cercare di portare il nostro suono a essere compatibile con quello di una chitarra elettrica anziché di una batteria o di un basso elettrico, chiedendo anche poi a tutti gli altri musicisti che non sono del nostro mondo di confrontarsi, di non dare nulla per assodato. Fino a oggi abbiamo incontrato solo persone che hanno avuto l'intelligenza di provarci insieme a noi. Sting è un'operazione completamente nuova, stiamo lavorando con il suo staff, hanno quasi timore di avere a che fare con un'orchestra italiana. Tutti i musicisti italiani sono visti comunque come i detentori della storia della musica, e coloro che l'hanno fatta e l'hanno portata avanti. Un europeo è l'uomo decisivo della fase finale dell'NBA americana. Parliamo di basket e di Dirk Nowitzki, giocatore di Dallas che ha trascinato i suoi alla vittoria su Miami. The MVP of this series with an average of 26 points and almost 10 rebounds a game. Dirk Nowitzki. I still really can't believe it. Arriva da un piccolo paese della Baviera, Würzburg. Il nuovo re dei canestri NBA è il tedesco Dirk Nowitzki, che a 33 anni corona il suo sogno, conquista il suo primo titolo e trascina i Dallas Mavericks all'anello. 4-2 per i Mavs nella serie finale contro i Miami Heat di LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh. Gara 6 è finita a Miami 105-95. Proprio per Dallas, con Nowitzki ancora protagonista con 21 punti e che poi è stato nominato anche il miglior giocatore della finale. Nowitzki così vendica la sconfitta subita nel 2006, sempre in finale proprio contro Miami, ed ora l'America dei canestri è ai suoi piedi. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 Ore in Europa. Un saluto da Paolo Piacenza. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.